conosce tutti, se lo associamo potremo identificare due aspetti che sono collegati alla stabilità che deve avere la struttura sociale, cioè l'interdipendenza stretta tra le parti, e i due aspetti sono l'invariabilità, insieme di relazioni relativamente stabili tra i elementi, e il principio ordinatore, cioè la presenza di una stabilità all'interno della struttura che però finalizzi la stessa struttura all'espletamento di una funzione, che raggiunga dei compiti. Allora, questo concetto è un concetto sufficientemente generale e applicabile anche in contesti nei quali non ci sono necessariamente dei gruppi. Ora io vorrei evidenziare un aspetto in particolare: non tutti i contesti relazionali sono dei gruppi. Il gruppo è una cosa molto specifica e si può definire operativamente il concetto di gruppo, che ha tre aspetti sostanzialmente: la presenza di interazioni strutturate, di modelli interattivi che si ripetono, il riconoscimento del singolo come appartenente a qualcosa di più generale, che è appunto il gruppo, il senso di identità del gruppo, e il riconoscimento reciproco di questa appartenenza. Non è sufficiente che io mi riconosca nel gruppo, ma anche gli altri devono riconoscere il legame tra me e il gruppo. Allora nasce un soggetto collettivo col gruppo, d'accordo? Non necessariamente voi vi trovate di fronte ai gruppi, anzi vi trovate porzioni di gruppi che forse in parte purtroppo non esistono più, che producono una struttura interattiva. Allora, il concetto di struttura è più utile perché è più generale rispetto al concetto di gruppo. E l'aspetto, diciamo, tra gli aspetti più importanti, la stabilità dell'interdipendenza delle parti, quindi l'invariabilità degli stili interattivi. E se noi troviamo che c'è un tipo di stile interattivo, di struttura più efficiente, bisogna cercare di riprodurlo nelle situazioni nelle quali ci troviamo. Se qualcuno ci chiede di farlo, perché qui non parliamo di ricerca pura, ma di ricerca finalizzata all'intervento sociale, e il principio ordinatore, cioè il fatto che queste parti producano la risposta a una necessità, raggiungano un obiettivo. La struttura serve a raggiungere ha delle finalità che raggiunge. La struttura cioè rimanda ad un sistema ordinato e non casuale di interdipendenze, cioè legami tra elementi, che ha una sua unitarietà, una sua vita, indipendentemente dall'avvicendarsi dei diversi elementi che risultano concretamente connessi. Il ruolo sopravvive, che in parte è determinato dalla posizione, sopravvive a chi lo gioca. D'accordo? La struttura ci conferisce dei ruoli che sono in parte indipendenti dalle nostre specifiche qualità. E poi vedremo un esempio che ci consente bene di vedere queste differenze all'interno dei ruoli. Ecco, allora vediamo quattro accezioni, e qui il quadro è più semplificato, sono soltanto quattro accezioni di struttura come stabile interdipendenza tra le parti. Questa parte del corso è la parte più teorica, e quindi dobbiamo confrontarci con quello che in letteratura troviamo rispetto a questa versione della struttura. Allora, la prima accezione che trovate riportata da Paola Di Nicola è la struttura come rapporti di produzione. E qui naturalmente l'approccio è quello marxiano. Quando questi autori, Marx e Engels, parlano di struttura, pensano alla struttura dei rapporti di produzione, cioè al ruolo che reciprocamente i soggetti occupano l'uno rispetto all'altro dentro il sistema produttivo, quindi i proprietari dei mezzi di produzione e invece la forza lavoro, gli operai, d'accordo? È interessante osservare come questa situazione produca, e questo è un modo, diciamo, che troviamo nell'ambito marxista delle riflessioni, tutta una serie di ripercussioni sugli altri aspetti che sono sovrastrutturali in questo ambito, che riguardano la vita degli individui. per esempio a livello familiare. La famiglia nucleare è senza dubbio più utile al sistema produttivo industriale capitalistico rispetto a quanto alla famiglia allargata, okay? Che invece è tipica del sistema produttivo rurale, d'accordo? Oppure alle strutture dei rapporti diciamo che esistono in ambito religioso. Tutte queste sono cose che dipendono dai rapporti di produzione, che servono a, in qualche misura, non direttamente, ma a riprodurli. Allora, qui troviamo per Marx e Engels il complesso dei rapporti di produzione costituisce la struttura sociale fondamentale dalla quale derivano tutti gli altri rapporti e relazioni sociali. Quindi ogni altra struttura sociale, da quella di classe sino alla famiglia, alle associazioni, alle diverse istituzioni sociali. Per esempio, facciamo un esempio che si può collegare a questo, no? Purtroppo non c'è il tempo di farlo. Quando in genere mi capita di parlare di differenze di genere, faccio una cosa semplicissima: spiegare tutte le teorie, eccetera, mostro i dati Istat sull'uso del tempo in Italia da parte degli uomini e da parte delle donne. Ok? Quello, secondo me, fuga ogni minimo residuo sospetto. Se qualcuno dice ma non c'è una differenza di genere, allora basta guardare quello e si vede la simmetria totale rispetto alle ore dedicate al lavoro produttivo e le ore dedicate al lavoro di cura, a prescindere dalle classi di età, dal livello di istruzione di queste donne. Okay? E anche tenete presente che una donna mediamente, quindi tenendo in considerazione tutte dai 15 anni in avanti, credo che sia il minimo alla memoria di età, è di 4 ore e mezza al giorno per le attività di cura, il tempo dedicato alla cura familiare. Ecco, anche rispetto alla presenza di un'attività lavorativa, queste ore sono sostanzialmente presenti. Anche la donna che lavora deve dedicare questo, e l'uomo un'ora e venti, d'accordo? Mediamente. Se guardiamo il tempo libero, troviamo un'ora in più. Adesso vado a memoria, quindi mi perdonerete se volete la prossima domani vi faccio vedere i dati. Un'ora in più al giorno di tempo libero. Allora, chiaramente c'è una differenza. Allora, se noi volessimo interpretare la differenza tra uomo e donna utilizzando questa impostazione, ci potremmo fare una domanda molto semplice: al mercato produttivo industriale conviene una donna che lavora? Proviamo un attimo a proiettarci all'epoca in cui ha pensato Marx, no? Quindi di prima industrializzazione, tutto, dove aveva, diciamo, una buona visione dell'avvio forte, potente del processo industriale. Conviene che la donna alla fine lavori o no? Quanto bisognerebbe pagare un uomo se questo dovesse comprarsi sul mercato tutto il lavoro di cura, cioè pasti caldi, indumenti puliti, stirati, eccetera? Bisognerebbe quasi un doppio. Pensiamo adesso, no? Cioè, è uguale, secondo voi, è uguale comprare sul mercato queste cose o farsele in casa a livello di spesa? Allora è chiaro che se il lavoro della donna è, in un certo senso, entra in una relazione particolare col sistema produttivo, per cui che economicamente può convenire che non lavori, questa è una trappola terribile per la condizione della donna. Guardate che ci sono delle differenze. Sentivo qualche giorno fa, alla fine di ottobre si chiude e le donne iniziano a lavorare gratis, cioè gli ultimi mesi dell'anno colmano il gap di stipendio medio che c'è tra uomini e donne, d'accordo? Come se gli ultimi due mesi mediamente le donne non guadagnassero niente, vista la differenza di stipendio da donna, no? Non ricordo la precisa. Ecco, allora voglio dire, la presenza di queste differenze sicuramente è che incidono sull'organizzazione della famiglia, possono in parte essere lette a partire dalla situazione rispetto al sistema produttivo. Se la donna è costretta a lavorare in casa e il lavoro è un lavoro non retribuito, non c'è molta differenza rispetto a una condizione servile, d'accordo? Dopodiché ci sono delle costruzioni culturali che possono permettere di giustificare questo, ma è chiaro che se ci sono delle differenze di fondo, allora l'approccio di questi autori è che abbiamo provato un po' a, come dire, a rendere più contemporaneo con qualche esempio, è che dipenda tutto la struttura, sia la struttura dei rapporti di produzione. Quindi se vuoi capire come funziona un posto, un luogo, devi capire come produce i suoi beni. La seconda eccezione è la struttura come insieme di relazioni fondate stabilmente su obblighi normativi di tipo giuridico, morale, religioso, eccetera. Allora, questa è l'accezione di Radcliffe Brown, che sostanzialmente considera cultura la struttura sociale, cioè un elemento necessario per il funzionamento e la stabilità del sistema. Qui abbiamo un avvicinamento molto forte tra il concetto di struttura e il concetto di cultura, che invece tendenzialmente sono presentati come distinti, e questa definizione di struttura enfatizza gli elementi simbolici e normativi. E quindi la cultura viene assunta come insieme di regole, di linguaggio, eccetera, eccetera, una struttura sociale capace di connettere parole, cose, uomini in maniera non casuale. Naturalmente anche qui siamo lontani da questa accezione di struttura sociale, che invece troviamo, vi ricordo che queste cose sono nel capitolo 3 del testo della Nicola, troviamo con l'accezione successiva. Voi purtroppo non avete potuto assistere alla parte sui classici, fra i quali abbiamo menzionato Silber, von Wiese, Sorokin, no? Che sono i classici rispetto a questa impostazione nella ricerca sociale, cioè io cerco la realtà fatta delle relazioni. Dice Silber che, riferendoci all'opera di Silber, osserviamo che la sociologia si occupa di ciò che sta fra gli individui, delle caratteristiche formali, sta allo studio della società come la geometria sta allo studio della fisica, non dei contenuti specifici dei quali si occupano le discipline particolari, il diritto, la psicologia, eccetera. Ai sociologi, secondo Singer, deve interessare la struttura, la morfologia delle relazioni. Poi vedremo un esempio di tutto questo. Quindi, se volete, posso anticipare, appunto, struttura come reticolo di rapporti che si stabiliscono tra individui che svolgono ruoli reciprocamente interagenti. Se dovessi chiedervi, ma che cosa fa, quando parleremo di Silber dal punto di vista più tecnico, parleremo della relazione diadica. Che cos'è la relazione diadica? La relazione diadica è la relazione tra due. Se io vi dovessi chiedere, se dovessi fare questa domanda, se pensate alla prima relazione diadica, ditemi qual è la prima relazione diadica che abbiamo. È prima, lei si vede che c'è un approccio sul, fondato sul territorio. Questa è proprio la prima, va bene, ha ragione. È la prima che mi viene in mente, ma che tipo di rapporto c'era tra Adamo ed Eva, no? Era come? Cosa ha detto? Qualcosa di amore. Di amore. Ok, una relazione di coppia, d'accordo? Oh no, lei concorda su questo? Sì, sì. Possiamo pensare a una relazione di coppia. Allora, stando agli iscritti. Bene, stando agli iscritti possiamo supporre, che due persone, quando pensiamo a due persone, pensiamo a una relazione di coppia. Allora, pensiamo un attimo a una relazione di coppia. Allora, provate, quali sono le caratteristiche di una relazione di coppia, almeno quelle ideatipiche? La vostra collega, naturalmente, interpretando il senso femminile, ha detto amore, no? È un legame forte. Cioè, un legame forte, si può descrivere operativamente il concetto di forza dei legami. I legami sono forti quando hanno un grosso investimento affettivo da parte degli individui, un grosso senso di intimità, e sono attivati con un'elevata frequenza nel corso del tempo. Queste sono tra le caratteristiche della forza del legame. Ok? Allora, uno potrebbe chiedervi, e qui secondo me le scritture non ci aiutano, potrebbero non aiutarci, perché La relazione di coppia ha queste caratteristiche? Cioè un legame forte? Perché? Se lo chiede il sociologo, questo, no? Facciamo finta di essere dei sociologi formalisti, che poi l'ambizione che ho alla fine è sostanzialmente questa, no? Di abituarci un po' a parlare, a ragionare in questo modo. Cioè, un sociologo formalista direbbe: questa caratteristica non può dipendere dalle caratteristiche dei singoli nodi. Certo, questo possono incidere, ma non è questo l'aspetto che interessa il sociologo. L'aspetto che interessa il sociologo deve riguardare la forma, la struttura di questa relazione. Allora, una relazione dialogica ha una caratteristica che la differenzia molto da tutte le relazioni che vanno dalla triade in poi. È priva di unità sovrapersonale. Cioè, se uno dei due nodi decide di rompere il legame con l'altro, con la rottura del legame non esisterà più la triade. Se uno dei due nodi della triade decide di rompere il legame con l'altro, la triade continua ad esistere. Se decide di rompere anche l'altro e di uscire dal network, avremo ancora la triade che si è trasformata in una diade. Ok? Cioè, la diade non può sopravvivere alla scelta di uno dei due nodi di rompere il legame. Ora mi rendo conto che può sembrare una forzatura pensare a una relazione d'amore in questa maniera, d'accordo? Ma proviamo a fare questo esperimento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che parte del contenuto di questo legame, cioè il fatto che sia un legame molto forte, intimo, frequentemente attivato, dipende proprio da questo pericolo, dal fatto che sia costantemente collegato alla scelta del singolo, per cui più sarà forte, meno sarà probabile che uno dei due decida di romperlo. Chiaro, sappiamo che poi si rompono tante relazioni di coppia, d'accordo? Però l'idea è che la diade abbia il contenuto di affettività, intimità, eccetera, che ha una relazione di coppia, proprio perché ha la caratteristica strutturale di essere priva di unità sovrapersonale, cioè di essere formata da due, soltanto da due nodi. Questa è un po' è l'impostazione della lettura. Ma vi rendete conto di cosa significa sposare da questo punto di vista? Il contenuto del legame di coppia, il fatto che sia forte, eccetera, dipende dal fatto che strutturalmente si configura come una diade. Oltre che dalle caratteristiche degli individui, per cui nessuno può essere, almeno non completamente, costretto a vivere un rapporto di questo tipo. Sinceramente costretto. Bene, la quarta e ultima eccezione è la struttura come caratteristica profonda, inconscia, fondamentale della mente umana. Qui abbiamo Lévi-Strauss, che non assume tale definizione che assume, scusate, tale definizione di struttura, non considera la storia umana, questa è una citazione da Crespi, come un processo evolutivo, ma come l'attualizzazione di modalità temporali delle leggi universali dell'attività inconscia dello spirito, ovvero di diverse possibilità di combinazione di relazioni strutturali costanti. Questo approccio è un approccio molto collegato appunto alla mente, alla visione del singolo, per i riferimenti teorici che ho richiamato nell'accezione precedente. È chiaro che invece ci muoveremo dentro quell'accezione, cioè quella che abbiamo visto collegata a Simmel, von Wiese, eccetera, del concetto di struttura, di sociologia. Anche questo evidentemente è molto interessante. Cioè l'attualizzazione, la vita umana non è le strutture che noi troviamo all'esterno, eccetera, non sono altro che l'attualizzazione delle leggi universali dell'attività inconscia dell'individuo. Questo è un genere di lettura molto, molto interessante, molto collegato alle caratteristiche della mente. Sì. Ecco, alla fine di questa parte voi trovate il richiamo all'opera di Tucker Parsons. Tucker Parsons è un sociologo funzionalista americano, il quale è molto importante, poi lo riprenderemo uno strumento di questo studioso, che è lo schema Agile, più avanti, e occorre, diciamo così, introdurre un attimo il tema del funzionalismo. Il problema del sociologo funzionalista è il problema dell'ordine sociale, cioè di spiegare l'azione degli individui in riferimento all'ordine sociale che noi registriamo a livello di integrazione. È nell'integrazione, nel tentativo di raggiungere, di mantenere l'integrazione, che si costituisce la società. Ed è la posizione diametralmente opposta ai teorici del conflitto, per esempio a Karl Marx. Sono le dinamiche conflittuali, il conflitto tra capitalisti e operai, sono queste le cose che producono la società. La società nasce da conflitti, nasce da contrapposizioni, ed è l'evoluzione, l'evoluzione sociale è leggibile come l'evoluzione dei rapporti di conflitto. E i funzionalisti hanno una posizione diametralmente opposta rispetto a questo, ma cercano di capire come, nonostante le differenze tra gli individui, nonostante le caratteristiche che essi hanno, non solo a livello caratteriale, ma di estrazione sociale, eccetera, ciò che differenzia gli individui, e tenete presente che ci sono alcune regolarità che si trovano molto facilmente rispetto alle interazioni tra i soggetti, per esempio a livello di relazioni di coppia, l'omogamia, il fatto che tendenzialmente tendano a unirsi in matrimonio, a sposarsi soggetti che sono simili dal punto di vista o della formazione culturale o dal punto di vista professionale, eccetera. E non è neanche tanto difficile capire quali sono le ragioni. Ci sono mille eccezioni, tutti conosciamo mille eccezioni, ma se noi guardiamo, diciamo, i dati sulle tendenze generali, è chiaro che è così. Anche a livello di relazioni amicali c'è la tendenza a stringere legami con soggetti che sono simili a noi. Si parla in quel caso di omofilia, è molto semplice, sta nella storia degli individui. Si nasce in un certo quartiere e quel quartiere è già una selezione sociale. I soggetti che abitano in un certo quartiere condividono lo stato sociale. Non tutti, ci saranno soggetti molto più ricchi, anche la professione, e molto più poveri, sì, ma diciamo la collocazione nella stratificazione sociale bassa, media. Viene in mente i militari, ad esempio, tante volte le caserme di militari che convivono tanto per loro, sono legami di amicizia tra di loro. Ecco, allora, naturalmente non possiamo pensare a delle esperienze che riguardano istituzioni totali come una caserma, no? Come esemplari, esemplificative per il resto della vita, no? Però lei ha detto una cosa importante, cioè perché nasca un legame tra due individui è necessario che questi si frequentino. Ora, ci sono caratteristiche individuali che rendono più probabile la frequentazione tra due soggetti presi a caso? Sì o no? Allora, se si nasce in un certo quartiere, e sapete bene che ci sono delle differenze tra quartieri molto semplicemente collegate già al costo delle case che hanno i quartieri, tendenzialmente si frequenteranno alcune scuole dove i soggetti ritroveranno individui simili a loro. Tendenzialmente questi soggetti si ritroveranno anche all'esterno, non so, nelle strutture religiose, associazioni che si trovano in quel territorio, eccetera. Così poi le scuole superiori resteranno delle. Ci sono delle, diciamo, delle. Non mi viene in mente, ad esempio, quelli che lavorano all'ospedale, tanti che lavorano all'ospedale che sono medici, tanti hanno delle relazioni con altri medici, rapporti di coppia, oppure con gente che lavora nell'ambito sanitario. Sì, poi tenete presente anche questa informazione. Voi, come sapete, non tutti i corsi di laurea hanno lo stesso costo. Le lauree non hanno lo stesso costo. Al di là della differenza tra lauree di strutture pubbliche o private, una laurea che dura 5 anni più 4 di specializzazione richiede un investimento economico più consistente da parte della famiglia, d'accordo? Una laurea che richieda un percorso di formazione che richieda 2 anni di vita all'estero per master, tirocini, eccetera, tendenzialmente è più costosa rispetto a una laurea che non lo prevede, d'accordo? Allora c'è una differenza tra le famiglie rispetto a poter finanziare un percorso di laurea più o meno costoso in base a quello che hanno a disposizione. Allora i soggetti che frequentano corsi di laurea che sono molto costosi, con tante eccezioni, ma proverranno da famiglie che sono più facoltose tendenzialmente rispetto alle altre, quindi interagiranno tra simili rispetto alla stratificazione sociale. Ci sono alcune caratteristiche che noi possiamo anche facilmente concettualizzare che creano delle tendenze rispetto alle relazioni tra individui, no? Allora, Parsons si chiede, nonostante queste differenze, com'è possibile che i funzionalisti, che ci sia una vita sociale comune, collettiva, organizzata, pur con delle difficoltà, pur con dei momenti, con delle, diciamo, fenomeni di devianza che vanno poi controllati, eccetera. Allora, il punto dei funzionalisti è il controllo sociale. È talmente tanto importante questo concetto che i funzionalisti utilizzano anche un modo particolare di spiegare i fenomeni. Se io vi dico spiegazione, definite il concetto di spiegazione, che cosa vi viene in mente? Che cosa vuol dire spiegare qualcosa? Rendere comprensibile. Forse ridurre un fenomeno ad un modello comprensibile. Ecco, che cosa intendete con comprensibile? Perché per me comprensibile può anche significare autoesplicativo, può anche elementare. Significare chiarificare. Elementare. Ecco, ma che sia tarato, trovare fatti o ragione. Che sia tarato in base alla persona a cui devi enunciare quelle determinate cose. Allora, le faccio una domanda. Allora, c'è un fenomeno catastrofico che avviene e coloro che abitano in un determinato quartiere della città colpita dall'evento catastrofico dimostrano di essere in una situazione di difficoltà, pur avendo subito alla stessa maniera l'evento come tutti gli altri, molto più radicale rispetto al resto della popolazione. E qualcuno viene e le chiede: scusi, mi può spiegare perché questi soggetti si trovano in questa situazione? Che cosa prova a darle lei? Posso dire che le persone lì sono più interessate dall'evento perché magari possono aver avuto rispetto alle altre un impatto. Ok, fermiamoci qui. Al di là dell'esempio della risposta concreta, spiegare vuol dire cercare una causa. Modello, lei intendeva quello, immagino, sì. No? Modello che renda comprensibile, perché c'è proprio la differenza tra comprensione e spiegazione, anche in sociologia ma anche in altre. Cioè la comprensione è la capacità di sposare il punto di vista del soggetto, di mettersi in qualche modo nei suoi panni. Comprendere in quel caso vuol dire è proprio per stem, cioè è la comprensione del punto di vista dell'altro. Spiegare è, ma se utilizziamo un modello va bene, cioè creare appunto il modello esplicativo. Che cosa, quali sono le cause? Ok? Allora, un funzionalista semplifico e taglio un po' con la cerca questi concetti, quindi abbiamo cause ed effetti. Perché capita questo fenomeno? Il perché causale della spiegazione è molto simile alla spiegazione fisica. Che cosa determina, quale causa determina questo effetto? Il perché del funzionalista, avendo il funzionalista grande attenzione per l'esito del processo interattivo, che è l'esito integrativo, la coesione sociale, è un perché finalistico. Perché, cioè per quale scopo si verifica questo fenomeno? Ed è un po' la spiegazione che troviamo in ambito biologico. Questa biologia è diversa dalla fisica. Un biologo deve, per spiegare a cosa serve un organo trovato in una nuova specie vivente, deve capire a che cosa serve quell'organo, perché quell'animale c'ha l'organo X, cioè perché, ma non quali sono le cause di quell'organo, a che cosa serve quell'organo, perché, per quale motivo vai al cinema, qualcuno mi chiede perché vai al cinema, voi gli raccontate l'effetto che vi produce andare al cinema, non perché mi sono seduto sull'automobile e mi sono avvicinato al cinema, d'accordo? È un'altra cosa, d'accordo? Allora, i funzionalisti ribaltano questa logica esplicativa, cioè cercano le cause a partire dagli effetti. Questo è il tipico della spiegazione funzionalista. Tant'è che per alcuni studiosi è anche fallace dal punto di vista esplicativo. D'accordo? Tu cerchi le cause, ribalti il rapporto fra causa e effetto, mettendo al primo posto gli effetti e cercando poi le cause. Perché ci sono delle differenze di ruolo all'interno della società? La risposta del funzionalista è perché ci sono dei ruoli che sono più importanti rispetto ad altri, la gestione politica, religiosa, eccetera. Vedete che è un ribaltamento logico. Cerco le cause, che è la differenza, le diseguaglianze, a partire dagli effetti. Un conflittualista non vi direbbe mai una cosa del genere. Quindi, diciamo, siccome c'è un conflitto, c'è una differenza, esiste la situazione che troviamo adesso, ma non ribaltare il concetto. Mi dica. Come dire, ad esempio, noi dall'effetto della paura cerchiamo le cause che generano la paura rispetto alle catastrofi. Esatto, però ecco, diciamo che la paura, se non con qualche eccezione, non è mai completamente funzionale al sistema. Cioè, i funzionalisti vogliono sapere qual è la funzione di ciascuno sottosistema della società, che cosa serve, perché c'è. Pensate un po' alla metafora organicistica, no? Appunto degli organi, vedete il parallelismo con la biologia. Allora, per questa ragione il contributo dei funzionalisti è molto utile nella concettualizzazione dei ruoli sociali, delle funzioni sociali che ciascun individuo svolge e delle aspettative collegate a queste funzioni. Non ha, per questa ragione Paola De Nicola riprende Talcott Parsons, un po' per fare, no, il punto circa le visioni della struttura sociale, e in modo particolare introduce il concetto di pattern variables. Le pattern variables sono utilizzabili per descrivere le differenze di ruolo, cioè ruoli più di carattere comunitario, informali, eccetera, un paradigma può essere il ruolo familiare, e ruoli invece più collegati allo svolgimento di funzioni che sono generaliste, per esempio dentro una struttura burocratica. Ok? Allora, Parsons ritiene che ogni ruolo possa essere descritto da una combinazione delle seguenti variabili modelli. Queste variabili modelli identificano delle dimensioni che ci consentono di analizzare nello specifico il concetto di ruolo. E perché il concetto di ruolo è importante quando studiamo la struttura sociale? Perché al di là della definizione di struttura che noi scegliamo di utilizzare, il concetto di ruolo è collegato alla motivazione di... Il concetto di ruolo è sempre collegato a quello di struttura sociale. Ricordate la stabilità, l'invariabilità e il fatto che la struttura debba produrre un effetto. E qui vedete le variabili di modello. Affettività, neutrale, ruolo può essere affettivo o neutro dal punto di vista affettivo. Un ruolo, facciamo l'esempio della madre, di suo figlio e dell'impiegato postale e della persona che ha di fronte, deve fare una raccomandata, va bene? Il primo rapporto è affettivo, il secondo è previsto strutturalmente che sia effettivamente neutro, perché se noi ci accorgiamo che così non è, perché in genere la persona che ci precede nella fila condisce di altri particolari interazione con l'impiegato che si trova di fronte, in genere reagiamo in maniera un po' stizzita, d'accordo? Un ruolo può essere ascritto o invece acquisito, ascritto alla nascita, il ruolo del figlio, o acquisito, in base alle azioni che fa l'individuo. Un ruolo può essere diffuso o specifico rispetto ai contenuti. La madre col figlio ha senz'altro è un esempio senz'altro di diffusività dei contenuti, cioè tocca tanti contenuti diversi questo tipo di rapporto. Invece la relazione che abbiamo con il legato di banca, posta, eccetera, è specifica rispetto ai contenuti che devono transitare. Le pratiche scolastiche di socializzazione servono proprio a far maturare questa abilità nell'individuo, cioè a manifestare una specificità nell'interazione, cioè a occupare ruoli dentro una struttura sociale più ampia, più generale. Un ruolo può essere particolaristico o universalistico, le interazioni cioè possono essere specialmente, in maniera particolare, tarata su una persona nel rapporto che abbiamo con gli amici. Se voi avete 5 amici non avete un rapporto uguale con tutti 5 i vostri amici, ma ciascuno è particolare rispetto al ruolo che voi svolgete rispetto a quella persona. Ma se andate in posta, vi aspettate che l'impiegato sia abbia un atteggiamento universalista, cioè che parli con voi esattamente con le stesse cose, nella stessa maniera che ha parlato con gli altri. E infine, le motivazioni possono consistere in un orientamento verso la collettività, cioè verso il mantenimento della comunità, oppure orientamento verso l'io, cioè di tipo egoistico, individualistico, finalizzato appunto al raggiungimento di uno scopo. Ecco, solo per, e concludiamo con questo, e allora qual è la struttura sociale che noi ipotizzo, dal prossimo giovedì impareremo a descrivere analiticamente. Qual è, allora, fatta questa panoramica, la struttura sociale che ci interessa? Ecco, l'approccio richiamato per la social network analysis è la struttura sociale definita, come è stata definita da Wellman e Berkowitz e anche altri autori, qui insomma è esemplificato il pensiero attraverso un riferimento a questi due autori. Le strutture sociali possono essere, siamo qui a pagina 79, possono essere rappresentate come networks, cioè come insiemi di nodi o membri del sistema sociale e come insieme di legami che indicano le loro interconnessioni. I nodi possono rappresentare persone, ma anche gruppi, grandi società, aggregati domestici, stati, nazioni o altre collettività. Purché siano dello stesso livello, noi possiamo studiare le relazioni tra diversi tipi di soggetti, dagli individui e i soggetti collettivi. I legami sono usati per rappresentare flussi di risorse, relazioni di amicizia simmetrica, trasferimenti, relazioni strutturate tra noi. Quindi vedremo che ci sono diversi contenuti per i legami e diverse qualità che noi possiamo studiare per i legami. Vi faccio un esempio molto semplice, poi ci salutiamo. Uno dei contenuti dei legami, delle caratteristiche dei legami che impareremo a studiare, è il segno del legame, positivo o negativo. Due soggetti possono essersi simpatici, provare una sensazione positiva o anche no. Anche Adamo ed Eva avranno avuto qualche momento di difficoltà, diciamo così. Allora, noi possiamo parlare del segno positivo e negativo collegato ai legami e vedremo che c'è una teoria che si chiama teoria del che ci spiega in che modo noi possiamo combinare i segni che dobbiamo registrare dentro un network e definire il network equilibrato dal punto di vista strutturale oppure in disequilibrio, cioè un network che rende più probabile un evento di rottura, di separazione all'interno. Queste e altre caratteristiche come il peso, la direzione, eccetera, poi vedremo dei temi. Va bene, avete qualche domanda? Anzi, la domanda ce l'ho io, avete qualche ripensamento? No, anzi, una conferma più che un ripensamento. Va bene, sono contento e allora ci vediamo, se non ho altre domande, grazie tante per la vostra attenzione e ci vediamo domani.